Capitolo primo. La vostra religione. Raccontò a Umar ibn al-Khattab, che Allah si compiaccia di lui, un giorno eravamo seduti assieme all'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, quando uno sconosciuto, dai capelli neri corvini e dalle candide vesti, sulle quali non c'era tracce di viaggio, si avvicinò. Giunto che fu vicino al profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, si sedette mettendo le sue ginocchia contro le ginocchia del profeta e appoggiando i palmi delle sue mani sulle cosce di lui. Una volta accomodatosi, disse: «O Muhammad, dimmi in breve che cos'è l'Islam». L'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, rispose: «L'Islam è che tu renda testimonianza che tranne Allah non c'è divinità e che Muhammad è l'apostolo di Allah, che tu esegua la preghiera quotidiana, che tu paghi l'imposta coranica, che tu digiuni nel mese di Ramadan e infine che tu faccia il pellegrinaggio alla casa di Allah, la qual cosa diventa obbligatoria quando ne hai le possibilità». Lo sconosciuto disse: «Hai detto il vero». A queste parole dello sconosciuto noi ci meravigliammo, perché egli, dopo aver fatto la domanda come uno che non sa, confermò la risposta come uno che sa. Lo sconosciuto chiese ancora: «Dimmi cos'è l'Iman». L'inviato di Allah rispose: «Che tu creda in Allah, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi apostoli, nella vita futura, e che tu creda nel decreto divino sia per il bene che per il male». Ancora una volta lo sconosciuto disse: «Hai detto il vero». Poi disse: «Dimmi cos'è l'Ihsan». Rispose: «Che tu serva Allah come se tu lo vedessi, giacché anche se tu non vedi lui, lui vede te». Disse ancora: «Hai detto il vero». Poi aggiunse: «Dimmi tutto quello che sai a proposito dell'ora della fine del mondo». Rispose: «Colui che ha ricevuto la domanda non ne sa in proposito di più di quanto ne sappia chi l'ha fatta». Lo sconosciuto insistette: «Dimmi allora qualcuno dei segni premonitori del suo avvicinarsi». Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria: «La schiava partorirà la sua padrona e tu vedrai i miserabili pastori del deserto gareggiare tra loro nel costruire edifici sempre più alti». Lo sconosciuto, ottenuta quest'ultima risposta, si allontanò. Come tutti gli altri, anch'io rimasi in silenzio. Dopo un po', il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, mi chiese: «O Omar, lo sai chi era colui che ha fatto le domande?» Risposi: «Allah è il meglio informato e il suo apostolo». Disse: «Era Gibril ed è venuto per insegnarvi la vostra religione».